Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ventaglia Koulibaly, buon pallone per Isai, tocca a Biraghi, un fallo laterale, c'è la rimessa, ma non si batte la rimessa, ancora 0-0, dopo Juve-Inter, dopo Chievo-Roma, anche Napoli-Fiorentina, bloccata sullo 0-0, Pioli ottiene un altro grande risultato, dopo l'1-1 in casa della Lazio, la Fiorentina cresce, il Napoli non riesce a uscire dal tunnel. Non è che puoi dominare 90 minuti a fare 90 minuti perfetti. Per quella che è un po' la dinamica della gara, per quello che tu hai creato, delle situazioni di gioco che hai fatto, meritavi il gol. Non l'hai fatto, sì, no, perché quello è fuori discussione. No, ma non l'hai fatto per colpa tua, punto e basta. Per quello ci prendiamo questo punto sapendo che dobbiamo essere un pochino più cinici, cattivi quando arriviamo poi sotto porta. Secondo tempo Lorenzo ha fatto un'ottima partita, direi ci sono molti meriti della Juventus e pochi dei meriti dell'Inter. Io lo sapevo, era squadra vera e lo sanno anche loro, a volte ci credono fino in fondo, a volte no. Per esempio nel secondo tempo non ci hanno creduto nella sua totalità. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Carmelo Lauricella, Paolo Corleone in regia. Allora, ieri sera 0 Juventus, 0 Inter, oggi 0 Roma e 0 Napoli. Io leggo subito il primo messaggio che è arrivato. Non eravamo nemmeno partiti. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. Adesso diteci che Juve-Inter è stata una partita bellissima, che miseria il calcio italiano. Io mi sono annoiato, ma è stata una partita bellissima, perché a quel livello lì, con quell'organizzazione difensiva, si gioca soltanto tra grandi squadre. Juventus e Inter hanno dimostrato di esserle, esattamente come il Napoli ha confermato di essere in questo momento, nel suo primo vero momento di crisi della stagione. Poi ne parliamo, adesso già Pierpaolo Marino che ci sta ascoltando. Secondo me oggi ha sbagliato anche Di Francesco, che bravo, ma oggi ha voluto eccedere, ha sbagliato e ha pagato pegno, perché ha perso due punti pesantissimi a Verona contro il Chievo. Quindi la classifica racconta che l'Inter resta in testa con 40 punti, Napoli 39, Juventus 38, Roma 35, una partita in meno, Lazio 32, gioca domani con il Torino e ha poi una partita da recuperare. Questo racconta la classifica. Tra qualche istante sentiamo anche Dries Mertens in diretta su Premium Sport. Pierpaolo Marino, ciao direttore. Buonasera, ciao. Allora, fammi ricordare i contatti. Noi siamo qui in diretta fino alle 19:00 24:00 24. Aspetto le vostre chiamate e voglio sapere cosa ne pensate di Juventus-Inter di ieri sera. Per me partita bellissima tatticamente, anche se capisco noiosa, pur nel secondo tempo la Juve le occasioni le ha avute, e poi della crisi del Napoli. Possiamo chiamarla così, direttore? Ma io non direi crisi, ma comunque c'è un'involuzione della squadra. Poi comunque questo campionato stava viaggiando su quote incredibili ai vertici, e era giusto anche che un poco si rallentasse, era fisiologico. E il Napoli però non lo possiamo definire in crisi, possiamo dire che è un Napoli che ha un momento di involuzione e di stanchezza di qualche suo giocatore protagonista. Sì, diciamo. Momento lungo. Facevo infortuni. Prima due calcoli, sì, poi però parliamo anche di Sarri, perché oggi per la seconda volta di fila non c'è Insigne, gioca Zielinski, con tanti saluti agli esterni di ruolo, come ad esempio Giaccherini. Facevo due conti dal primo novembre, quindi quando siamo entrati in questo momento un po' delicato, Champions compresa, il Napoli ha vinto 3 partite su 8. E secondo me sono oggettivamente troppo poche per mantenere quei ritmi. C'è la voce di Mertens, c'è Mertens in diretta Premium Sport nel post partita di Napoli-Fiorentina. Periodo difficile, ma evidentemente periodo buono non è. No, oggi era un po' difficile, siamo iniziato bene, abbiamo avuto un po' di occasione, solo mancava un po' di, può essere fiducia, un po' di, non lo so, un po' di fortuna. Peccato, perché oggi poteva essere un giorno molto bello. Senti, Napoli che è migliorato però nel secondo tempo, avete costruito diverse occasioni da gol, c'è stato il palo, l'occasione di Hamsik, la tua anche, però l'impressione è che per prestazione non sia il Napoli di qualche settimana fa, cosa sta succedendo? No, il secondo tempo secondo me la Fiorentina non ha avuto un'occasione, abbiamo fatto bene, peccato che non abbiamo fatto gol, si arriva il primo, subito vi arriva il secondo e oggi non è arrivato il primo. Allora, siete tranquilli, questo Mertens 8-0-0, 24-0-0, 24, io credo che la fortuna c'entri poco, direttore Marino. No, la fortuna non c'entra perché il Napoli qualche tempo fa della fortuna se ne infischiava grandemente, quindi la differenza oggi la deve fare la fortuna o la sfortuna, allora siamo in una situazione diversa dalla precedente. Però, ripeto, è un Napoli in involuzione e soprattutto condizionato da questa rosa che si è improvvisamente ristretta per gli infortuni e naturalmente anche dallo scarso minutaggio che alcuni giocatori hanno ricevuto da Sarri, questo è indiscutibile, lo dicono tutti, lo dico anch'io, non aggiungo niente di particolare. Sì, poi c'è Mertens che ha segnato l'ultimo gol in campionato il 29 ottobre, poi da lì in mezzo ne ha messo uno contro lo Shakhtar in Champions, c'è Calleon che ha segnato l'ultimo gol in campionato il 29 ottobre contro il Sassuolo e che nelle ultime 14 ha segnato solo una volta. Per questo io dico, secondo me non è solo una questione di infortuni, è anche solo di condizione fisica. Sì, però se avevi i ricambi... E tu torni sempre a Milik. Sì, e poi non dimentichiamo che l'infortunio principe è quello di Ghoulam, perché il Napoli sviluppava tutto il suo gioco sulla fascia sinistra attraverso quella catena virtuosissima composta da Hamsik, Ghoulam e Insigne, e si è vista privata proprio di quella meccanicità, di quegli automatismi e della fonte di gioco che era quella catena lì di sinistra, e il Napoli è come zoppo in questo momento qui, senza quella fonte particolare di gioco. Perché gioca Zielinski, non gioca qualcun altro a sinistra senza Insigne? Perché evidentemente Sarri ha capito il momento della squadra e mette un giocatore che, essendo stanco Calleon dall'altra parte, che era quello che gli faceva anche un po' di fase difensiva, si affida a Zielinski e quantomeno mantiene la compattezza della squadra, perché altrimenti mettendo un giocatore offensivo di là che non incida sulla partita come Insigne rischi anche di avere una squadra meno produttiva dal punto di vista del risultato. Sei d'accordo che siamo al primo snodo forse che conta davvero di questa stagione e non sì, a caso stanno venendo fuori alcuni valori. Cioè sì, la Juve, ad esempio, esce da questa settimana e conferma forse di essere la più forte, punto. Sì, sicuramente questo lo sapevamo, anche perché le squadre di Allegri, sai benissimo che anche quando ha vinto, per esempio, lo scudetto a Milano, lui parte sempre da novembre in poi, fine novembre, dicembre in poi, e ha sempre delle fasi critiche fin da quando allenava a Cagliari fino ad ottobre. E quindi era una caratteristica, ma la squadra della Juve è forte, poi non ha ancora sfruttato i nuovi acquisti che stanno solo ora cominciando a dare dei contributi parzialmente, e il Napoli, per aggiungere ancora, ha forse la sua crisi nell'autostima ora che è venuta meno, psicologicamente il Napoli con la sconfitta con la Juve ha ricevuto una mazzata tremenda, poi si è aggiunta la mancata qualificazione, la sconfitta. Però è un problema se non si riesce a gestire la prima sconfitta dopo 3-4 mesi di gestione. Di stagione. Sì, perché viene. Cioè, diciamo è un segno di debolezza. Ma questi momenti non vengono mai da soli. Poi, quando hai delle fragilità psicologiche, significa che non hai ancora quella capacità di poter introdurre elementi nuovi nella squadra, come fa la Juventus, che può ad esempio inserire Douglas Costa piuttosto che Bernardeschi nella partita di Champions, che poi fa anche gol. Il Napoli non ha questi ricambi di questo livello che fanno sentire la squadra forte anche nei momenti in cui qualche leader viene meno. Sì, intanto io faccio sempre due conti. Nelle ultime tre partite il Napoli ha tirato 31 volte e ha fatto un gol su rigore, tra l'altro tirato pure male. Voglio chiedere un minuto di pazienza a Pierpaolo Marino, aspettando le parole di Sarri, se arriverà a parlare nel dopo partita di questo Napoli-Fiorentina. 800-24-0024, se volete chiamare per prenotarvi, intervenire fino alle 19. Poi dopo le 18 parliamo in maniera approfondita di quello che è successo ieri sera a Torino, Juventus-Inter, ripeto, secondo me partita noiosa ma bellissima, perché così giocano solo le grandi squadre. Oppure 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Leggo quella di Marco, interista ad Alessandria: l'Inter non è da scudetto, deve spingere al massimo per essere sicura del terzo o quarto posto. Sono abbastanza d'accordo, anche se oggi la Roma ha dato un segnale. Poi c'è chi ci contesta, mi contesta, aver definito il Napoli in crisi ed è a un punto dalla prima. E beh, per crisi io intendo quello che è l'andamento di queste ultime giornate, ma sono i numeri a dirlo: ha fatto 8 punti su 15 e con questa velocità tu il treno di testa rischi di non tenerla, di non tenerlo se tieni questa velocità. C'è con noi Pierpaolo Marino, aspettiamo Sarri. 800 24 00 24, torniamo subito. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Tutti convocati. Allora, vi do anche gli altri risultati del pomeriggio. Spal-Verona 2-2, è stata una partita pazzesca. Verona avanti con due gol nei primi 25 minuti della ripresa. Cerci su rigore, Caceres, dopo che nel primo tempo la Spal aveva avuto tante occasioni. Poi due pali di Grassi per la Spal, un gol annullato con il VAR a Floccari. E negli ultimi 5 minuti la Spal ha pareggiato con Paloschi con un rigore di Antenucci. E poi Udinese batte Benevento 2-0, gol tutti nel primo tempo di Baracca e Lasagna. Alle 18 Sassuolo-Crotone, alle 20.45 Milan-Bologna, domani Genoa-Atalanta, Lazio-Torino. Alle 17.30 seguiremo qui in diretta anche il derby di Manchester tra United e City con l'ultima chiamata per la Premier League. Saluto anche Sandro Sabattini, ciao Sandro. Ciao, buonasera a tutti. Voglio congedare Pierpaolo Marino con l'ultima domanda: ti è piaciuta Juve-Inter ieri sera? A me è piaciuta da un punto di vista della tattica, della strategia che gli allenatori hanno messo in campo. Si sono viste due squadre che volevano soprattutto non essere squilibrate in campo, e d'altra parte il pareggio poi alla fine è stato un risultato giusto, e fra due squadre di cui una fa della fisicità la sua arma principale, l'Inter, no? E dall'altra parte c'era Juventus che ha esercitato un predominio territoriale e nient'altro di più, perché di conclusioni ben poche. È curioso che non si siano visti i due bomber principi della squadra. Praticamente due fantasmi. Sì, Icardi e Higuain, che non hanno ricevuto neanche palle giocabili, ma neanche si sono visti, perché spesso erano anche preoccupati di andare dietro la linea della palla. E niente, una partita che non si passerà, che non passerà la storia fra le più belle, ma che però ci dice che ci sono due squadre in grado di lottarsela fino alla fine. Sì, io sono d'accordo. C'è Luca che scrive: come fai a definire bellissima una partita dove una delle due squadre non fa neanche un tiro in porta? È una partita di, insomma, non è piaciuta a Luca, ma fra grandi squadre succede così. Io trovo senza senso le accuse che ho sentito fare ieri sera, soprattutto dai tifosi all'Inter, di aver fatto catenaccio. Si chiama organizzazione difensiva, la stessa che ha fatto con altra qualità e con altri esiti la Juventus a Napoli una settimana fa. Grazie direttore. Buonasera a tutti. Grazie Pierpaolo Marino. Sei d'accordo Sandro o no? Ti è piaciuta ieri sera Juve-Inter? A me è piaciuta molto. Io credo che abbiamo parlato del derby di Manchester, che ci sarà fra poco. Se non sbaglio, un derby di Manchester dell'anno scorso terminò proprio 0-0, ma non ci fu una sollevazione popolare come c'è stata da ieri sera a definire la partita brutta. E in questo è colpevole anche il nostro amico Pierluigi Pardo, che era in telecronaca, colpevole naturalmente, detto con simpatia e tra virgolette. Riguardo al fatto che l'Inter si sia difesa come la Juventus a Napoli, credo che sia il caso di fare delle differenze, perché non sono sottili le differenze. Beh, la Juventus si è difesa dopo aver segnato comunque il gol dell'1-0 a Napoli con Higuain. L'Inter si è difesa, punto e basta. Ma è facile, però, sai, è facile dire, fanno catenaccio. Sono due partite di due squadre che fuori casa se la giocano anche così, quando giocano contro squadre che possono metterle in difficoltà. ma io non attacco assolutamente la strategia, non attacco la tattica, io dico semplicemente che comunque Spalletti avesse potuto, i suoi avessero potuto, avrebbero giocato molto di più in attacco, invece non ci sono riusciti per merito della Juventus. A voler dirla tutta, la differenza tra Napoli-Juve e Juve-Inter è che comunque Buffon a Napoli non ha fatto parate decisive, mentre Handanovic ha fatto un paio di miracoli ieri sera. Sì, decisamente. Aspettando Sarri, ammesso che si presenti ai microfoni dopo questo Napoli-Fiorentina, poi voglio sapere da Sandro Sabatini cosa pensa di Di Francesco, che secondo me oggi va dietro la lavagna per aver sottovalutato la difficoltà di questa trasferta della Roma a Verona contro il Chievo, perché non si fa l'esperimento di far giocare Schick prima punta tenendo fuori il capocannoniere, poi capita che tiri 30 volte e finisce 0-0. Però restiamo un attimo su Juventus-Inter di ieri sera. Allora, Spalletti. Noi siamo una squadra che deve giocare a calcio e che deve fare in fretta a rendersi conto di tutte le qualità che ha, cioè quindi a noi non ci ha portato nessuno, non ci ha regalato niente nessuno, loro se lo sono meritato. Stasera avevano una grandissima occasione, si erano creati veramente la situazione per dare una spallata forte. In alcuni momenti ci siamo riusciti, in alcuni no, però non abbiamo esibito tutta la nostra qualità e quello è un po' il dispiacere. Ecco, non avevamo niente da perdere, non abbiamo nulla da perdere. Secondo me ha messo su una maschera Spalletti ieri sera, Sandro. Io sono convinto che lui fosse molto, molto contento. C'è un amico che scrive, Tiziano, che l'Inter è stata splendida così come l'era stata a Roma e a Napoli. Guarda, io credo che la corda non si debba tirare troppo, perché poi dopo si spezza. E io credo che Spalletti invece non sia contentissimo del risultato, sì, e ci mancherebbe, dello spirito di gruppo, sì, e ci mancherebbe, della grinta, sì, e ci mancherebbe, ma del gioco no. Per un motivo molto semplice, che ti puoi difendere, ma se imposti tutto sulla difensiva e poi alla fine rischi, prendi gol all'ultimo minuto, cioè rischi tanto. All'Inter è andata anche abbastanza però bene. Però se giochi contro una squadra che è superiore, e ieri la Juve si è dimostrata superiore, io credo, si è dimostrata superiore anche fisicamente, pensando che aveva avuto una settimana ben diversa da quella dell'Inter, io trovo che poi si possa anche semplicemente limitarsi alla fase difensiva. Sì, ma io quello che sto dicendo è che ti puoi anche limitare alla fase difensiva, però io credo che anche la fase difensiva non va valutata in base alle occasioni che tu hai comunque concesso. E allora c'è un'occasione per Mandzukic dopo mezz'ora, poi dopo c'è una traversa di Mandzukic, poi c'è Mandzukic nel secondo tempo che sbatte il pallone sul ginocchio, poi c'è qua un paio di conclusioni di Cuadrado. Cioè l'Inter comunque ha concesso 8 tiri in porta alla Juventus, e io non sto criticando l'Inter, sto semplicemente dicendo che il dato di 8 tiri nello specchio della porta di Handanovic è il peggior risultato dell'Inter di quest'anno. Quindi esaltare l'Inter è giusto, perché sta facendo un campionato bellissimo, sorprendente, sta dimostrando tante cose bellissime, però calma a dire che la strada dell'Inter è quella di ieri sera, perché secondo me, come ha detto anche Spalletti, questa squadra può e deve fare meglio anche in fase difensiva, concedendo meno conclusioni all'avversario. Intanto a Torino con la Juve, a Napoli e a Roma non ci va più. Che non è poco, non sempre ti capita di giocare fuori casa con la Juve. Ma infatti l'Inter ha un calendario estremamente favorevole da adesso in poi, perché il prossimo scontro diretto, che poi insomma è tutto dimostrato che sia lo scontro diretto, è la Lazio. Però poi al ritorno avrà la Lazio in trasferta. E quindi, scusate, al ritorno avrà la Lazio in trasferta, quando potrebbe essere anche una partita, tra virgolette, inutile contro la Lazio. E le altre le avrà tutte in casa. E le altre le avrà tutte in casa. Ora, se la partita è inutile con la Lazio si riporta a qualche o no del tempo passato, spero di no. Però, in ogni caso, il calendario è favorevolissimo all'Inter. E quando ho detto no, ho citato uno striscione che magari qualcuno alla radio non ha presente come immagine visiva. Sì, però credo fosse il 2009-2010, esatto, no? Con l'Inter in volata con la Roma, ma noi speriamo di no. A proposito di volata, intanto speriamo che Sarri di volata si presenti ai microfoni. Non so se tu hai notizie, Sandro, ma siamo qui che attendiamo Premium aspettando. Guarda, lo sto attendendo anch'io, sto guardando anch'io qui dalla regia. Io dico soltanto che Sarri si sa, dopo la partita si sfoga, sboccolando alla Toscana e fumandosi mezzo pacchetto di sigarette. Però io non vorrei proprio che esagerasse con questo ritardo, perché non giova a lui, al Napoli e a tutti i tifosi napoletani. Cioè, lui deve presentarsi e dire come la pensa. Nient'altro, nessuno gli vuol fare un processo, nessuno lo vuole mettere sotto accusa, però è evidente che il Napoli nelle prime 8 giornate ha fatto 24 punti, nelle successive 8 giornate ha fatto 15 punti. C'è qualcosa che non va. Sì, e può essere c'è una flessione indiscutibile. Sì, indiscutibile. Qualunque sia la spiegazione, prima parlavamo con Pierpaolo Marino, una spiegazione è anche che ti manca Insigne e gioca Zielinski, ad esempio, e qualche esterno in più potresti averla. È vero che poi sei stato sfortunato con gli infortuni, è anche vero che Sarri fa veramente fatica a far giocare le seconde linee, giocano sempre gli stessi, anche fuori ruolo. Io credo che oggi Di Francesco abbia sbagliato, Sandro, perché far giocare, debuttare dal primo minuto Schick in una partita difficile come sono sempre le trasferte a Verona contro il Chievo, tenendo fuori Dzeko, quindi secondo me ufficializzando che in questo momento Schick e Dzeko sono due alternative, significa essersi preso un rischio che poi puntualmente non ha pagato. Guarda, io Schick quando l'ho visto giocare prima punta anche con l'Under 21 al campionato europeo contro l'Italia non mi ha mai convinto, quindi io credo che Schick non sia quello il suo ruolo, molto semplicemente. Schick, secondo me, se vuoi fare un esperimento lo fai mettendolo insieme a Dzeko, non in alternativa a Dzeko. Poi è chiaro che noi facciamo i discorsi col senno di poi e sono sempre più facili, e credo anche che, come avevamo elogiato Di Francesco per la saggia e sapiente gestione del turnover in alcune occasioni, adesso che invece il turnover l'ha sbagliato, il risultato dice che l'ha sbagliato, non dobbiamo esagerare con le critiche. No, lo si mette dietro la lavagna per una settimana, Così come avevamo messo dietro la lavagna Sorrentino, portiere del Chievo, domenica scorsa, quando aveva regalato 5 gol all'Inter. Oggi è straordinario, invece gli eroi della domenica, c'è Sorrentino sul podio perché invece almeno due o tre parate strepitose l'ha fatta contro la Roma. Però la riflessione mi è venuta a partita in corso, guardando che domenica la Roma gioca col Cagliari in casa. Ecco, se magari vuoi fare un esperimento e vuoi tenere fuori Dzeko, può essere quella la situazione migliore. Grazie Sandro. Ciao, grazie a voi. Grazie Sandro Sabattini. 800 24 00 24. Antonio D'Avellino. Antonio, salve, buonasera. Eccoci. Perfetto, io sto rincasando adesso dopo aver visto la partita del Napoli, ovviamente tifoso del Napoli, napoletano e vivo d'Avellino. Ho ascoltato il commento sulla partita e volevo fare una domanda e considerazione. È vero, il Napoli oggettivamente è in difficoltà, ovviamente forse più fisica, anche perché ti viene a mancare Ghoulam, Insigne con l'ultimo infortunio, e qualcosa là davanti la perdi. Ora la considerazione che io faccio e vi faccio la domanda è che se a gennaio, il mercato di gennaio ci potrà dire le vere ambizioni del Napoli, perché noi siamo partiti non favoriti per lo scudetto, Inter, forse la Juve sicuramente avanti a tutti, e poi leggevo quest'estate l'esaltazione della grande campagna acquista del Milan, la Roma, quindi il Napoli. Sì, ma tu a gennaio cosa ti aspetti da De Laurentiis? Io mi aspetto che la società faccia il famoso salto di qualità che si chiede al Napoli, non lo deve fare Sarri. Ma io non credo che succederà, però, Antonio. Non credo che il Napoli spenderà 30 milioni sul mercato di gennaio, e se devo dirla tutta, non credo neanche che se ne spende 20 poi servano. L'abbiamo visto l'anno scorso, il Napoli ha speso 18 milioni per Pavoletti, non ha praticamente giocato una partita con il Napoli. Sì, pochissime partite giocate, giocate male, ma la soluzione qual è? Perché tecnicamente Sarri, io credo che stia facendo miracoli a Napoli, più di quello che Sarri ha fatto fino ad ora non può fare, con gli elementi calciatori che ha a disposizione in questo momento e che vengono da mesi e mesi di partite ad alto livello, forse anche superiori alle proprie qualità e caratteristiche. Adesso se lei ascolta i commenti di tutti, quasi tu, la maggior parte dei tifosi del Napoli, Sarri ha sbagliato formazione, Sarri poteva io dico solo Antonio e poi ti saluto, che se tu hai un momento di flessione e di crisi, qualcosa magari puoi trovare già all'interno di quello che hai. A me ha sorpreso che con due partite senza Insigne, dopo oltre 60 che giocava consecutivamente, qualche esterno di riserva ci sarebbe nella rosa. Mi viene in mente Giaccherini oppure ha giocato Zielinski, che è adattato in quel ruolo. Oggi a sinistra il Napoli non ha giocato bene, oggi a sinistra il Napoli ha fatto una grandissima fatica, e se si unisce la grandissima fatica di Mertens e di Callejon, i numeri dei gol segnati li abbiamo dati prima, o meglio dei gol non segnati, io trovo che non ci sia nulla di sorprendente in questo momento di flessione del Napoli. 800 24 00 24, c'è chi ci scrive, Ulisse, che l'Inter può soltanto migliorare, chi dice che Sarri deve giocare di testa come fanno Juventus e Inter, quindi abituarsi anche a controllare il gioco sullo 0-0. Chi parla di Dybala, dopo le 18 ne parliamo. C'è Sarri che sta arrivando ai microfoni di Premium Sport. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa, quando torniamo c'è Pierluigi Pardo e ripartiamo proprio da Sarri. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Se anche oggi ha rivisto questi problemi lì davanti, se lì davanti ecco, i microfoni di prima. La manovra è un Napoli in difficoltà. No, oggi no. Oggi abbiamo fatto un primo tempo un po' nervosi, un po' contratti, abbiamo sbagliato più del solito l'impostazione, poi abbiamo fatto un secondo tempo in cui abbiamo creato tante occasioni. Oggi non l'abbiamo messa dentro, però abbiamo rigiocato, ritrovato anche gli ultimi 20 metri perché abbiamo creato. Quindi, secondo me abbiamo fatto una buona partita oggi, abbiamo trovato una buona squadra, squadra in salute, che nel primo tempo ha tentato anche di ripartirci sovente e nel secondo tempo invece siamo riusciti a mettere costantemente sotto. E secondo me è una prestazione confortante dal punto di vista della mentalità, dell'impegno, della determinazione con cui abbiamo giocato, e poi ho detto, smaltito un po' di nervosismo, abbiamo ritrovato anche certe giocate, abbiamo creato, abbiamo avuto un paio di palle con Zielinski, una con Mertens, una con Callejon, oggi abbiamo creato. Avete creato, allora, questo è Sarri, microfoni di Premium Sport. Allora, ripeto ancora i numeri, 800 24 00 24 per prenotarvi, intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Io e Luigi Pardo, ciao. Eccoci qua. Carissimo, ciao. Non sono d'accordo con Sarri, soprattutto il primo tempo, secondo me è stata una delle peggiori partite del Napoli, soprattutto il primo tempo. Non so tu come l'hai vista. Ma io ve l'ho commentato in diretta Premium, brutto Napoli nel primo tempo, assolutamente molto brutto, secondo tempo un po' meglio, però insomma, squadra abbastanza stupata. Direi che tra lo 0-0 del Napoli e lo 0-0 della Roma c'è una differenza, nel senso che la Roma, che secondo me ha qualche problema in assoluto nell'efficienza realizzativa, l'ha detto anche Di Francesco dopo i famosi 37 tiri contro la SPAL, però la Roma oggi onestamente ha costruito 5-6 palle gol clamorose, neanche concesso a qualcuna, però ha trovato un Sorrentino incredibile. Il Napoli ha fatto poco, secondo me ha fatto poco. Il Napoli sta facendo poco da un mese, davamo prima i numeri nel senso statistico insieme a Pierpaolo Marino. Hai ragione, il Napoli sta facendo poco perché ha perso secondo me in brillantezza, dal punto di vista psicologico non è ovviamente nel momento migliore della sua stagione, e poi comunque quei tre, perché adesso bisogna aggiungerci anche Insigne, che se tornerà pesano, non sono dei dettagli, una squadra come il Napoli costruita sui titolarissimi, quei due e mezzo, perché Milik non è un titolare, sono giocatori che pesano. E poi anche quelli che ci sono stanno facendo fatica. Leggo qualche messaggio che sta arrivando. Alberto da Padova: ieri sera abbiamo visto i limiti dell'Inter, addio scudetto. Io non so chi ha parlato di scudetto per l'Inter, e poi io ieri non ho visto grandissimi limiti, cioè ho visto una squadra messa sotto una squadra più forte, ma che è riuscita a tenere il campo. L'Inter ad oggi è la grande trionfatrice di questa giornata, può diventare la Lazio domani sera se batte il Torino, ovviamente, ma mi pare chiaro che Roma e Napoli hanno perso delle occasioni, e in fondo l'ha persa anche la Juve, perché la Juve comunque giocava in casa contro l'Inter, e insomma ieri era ovvio, bastava guardare la postura dei giocatori al fischio finale, che quelli dell'Inter fossero legittimamente più contenti di quelli della Juve. A me l'Inter ieri non è dispiaciuta, sinceramente, nel senso che dal punto di vista della qualità estetica ha fatto il catenaccio? Ha fatto niente. Ha fatto sei difesa, catenaccio e organizzazione difensiva sono due cose diverse. Sono abbastanza, cioè, è chiaro che la Juve ha fatto di più, ha costruito più occasioni, e se c'era una squadra che doveva vincere era sicuramente la Juve, però l'Inter ha fatto una partita onesta, secondo me non ha fatto una partita, ha fatto una partita brutta dal punto di vista estetico, ma insomma non credo che, cioè, io credo che oggi i tifosi dell'Inter debbano essere felici perché comunque è un risultato importante, che quindi non sono d'accordo con l'ascoltatore, Poi che l'Inter debba migliorare la propria qualità di gioco se vuole vincere il campionato, questo è evidente. Però, per esempio, una settimana fa contro il Chievo ho visto una grande squadra. Ha giocato benissimo. Allora, notizia, allerta meteo arancione, Genoa-Atalanta è stata rinviata di 24 ore, era prevista domani alle ore 12, alle ore 19 e è stata rinviata a martedì, sempre alle ore 19. Saluto Massimo Caputi, responsabile pagina dello sport del Messaggero. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Vi faccio sentire Di Francesco oggi a proposito dei gol mancati. Non possiamo sempre aspettare solo i gol di Edin, sicuramente qualche gol in suo ce l'aspettiamo, ma sono convinto che alla lunga arriveranno. Contentissimo del fatto di avere grandissimo equilibrio, concedere al di là proprio dei gol subiti, anche concedere poco agli avversari, e questo è un aspetto molto importante, cercando di giocare sempre alti e aggressivi, anche questo è un altro dato che conforta il modo di lavorare. Però obiettivamente qualche gol manca perché tante volte anche fare un gol per un giocatore anche di un 4-0, di un 4-1 dà forza, dà fiducia a quello che va, a quello che propone. Oggi ha giocato per la prima volta titolare Schick dall'inizio, e allora poi chiedo a voi anche la pagella della partita di Schick. Sentiamo che cosa ha detto invece Di Francesco. Patrick Schick può giocare benissimo da prima punta e anche da esterno, ovviamente con caratteristiche differenti da un esterno classico, e oggi ha fatto tutte e due le cose, per quello non è definitivo. Vedendola, se uno guarda con attenzione la partita, vede che Patrick Schick è stato utilizzato in due ruoli. Io sono convinto, giro questa riflessione a tutti e due, oggi ne ho avuto la conferma, che in questo momento Schick, più che un valore aggiunto, sia un problema da gestire per Di Francesco. Tant'è vero che il debutto avviene, e avviene come di fatto mettendo Dzeko in panchina. Cioè oggi, in questo momento, in quel 4-3-3, non avendo avuto il tempo di lavorarci, Schick è quello. Non so cosa pensate voi, poi ragioniamo sul fatto che si vada a Verona in una trasferta insidiosa e ci si vada senza il capocannoniere. Massimo Caputi. Ma no, io non sono d'accordo sul fatto che sia un problema. Io credo invece sia un valore aggiunto. È chiaro che la bravura di Di Francesco sarà quella di inserirlo nei tempi e nei ruoli che riterrà più adatti e più giusti a seconda delle partite e degli avversari. Credo però che a giochi fatti, dopo 90 minuti e con il risultato di 0-0, chiaramente è più facile criticare, no? Da parte di tutti quanti noi, me per primo, però credo che già da giorni, da settimane si invocasse il riposo di Dzeko, perché lo si era visto un po' appannato e anche fin troppo nervoso, proprio perché non era al meglio. Cioè, non si possono pretendere le grandi squadre con le rose importanti e giocatori importanti e poi non farli giocare. Credo che quella di oggi, soprattutto, sia la carenza della Roma sia stata quella che si porta un po' avanti da parecchio tempo, dall'inizio della stagione, e cioè che è un poco cattiva sotto porta e produce poco rispetto a quello, cioè meglio, sintetizza poco quello che invece quello produce. Che produce. Sì, io la riflessione la facevamo prima, calendario in mano, domenica c'è Roma-Cagliari, forse fatto 30, potevi fare 31 e tenere ancora le cose così come stavano. Certo. Pier. Sì, beh, dopo che sappiamo il risultato... riflessione fatta anche prima, però adesso sono cose, scusate, che restano di redazione. No. Ti dico la verità, discutiamo in tanti, anche a Napoli si discute sul poco turno per Sarri. No, ma certo, poco turno di Sarri. Se poi oggi Francesco ha fatto una cosa che ci stava, poi giusto o sbagliata non lo so, una cosa che ci stava, e Sorrentino prenderà 8,5 in pagella. Poi sicuramente rispetto alle altre squadre la Roma è un po' meno cinica. È un po' meno cinica perché ha un modo di giocare e il suo principale attaccante, che si chiama Dzeko, che è un attaccante favoloso, ma è meno cinico di altri. È meno cinico di Icardi, tanto per fare un esempio, no? E questo è indiscutibile. Anche non mi ricordo quale partita della Roma, circolava la battuta in sala stampa, forse col Verona, insomma, una delle prime partite, che Dzeko poteva vincere la classifica canonieri soltanto in quella partita lì, perché aveva avuto 5-6 occasioni clamorose. È un attaccante che dà molto per la squadra, che è utilissimo a farla salire in certi momenti, che partecipa molto all'azione e che non ha però, magari forse proprio per questo motivo, lo stesso cinismo, la stessa cattiveria sotto porta che hanno altri. Oggi Dzeko ha avuto un'occasione clamorosa su un assist di Nainggolan nel finale, quindi secondo me non possiamo, cioè, fare una colpa di Francesco su questa roba mi sembra veramente... No, una colpa no, però alle volte quando si è bravi, secondo me, si tende a strafare. Secondo me è proprio, una cosa del genere è proprio sbagliata. Ah. È sbagliata, direi proprio anche intellettualmente, perché premesso che la rispetto ovviamente, no? Perché la Roma le occasioni le ha avute. La Roma ha trovato di fronte un portiere che ha preso di tutto, quindi secondo me non è questo. Soprattutto ne ha avute tante di occasioni anche tirando fuori dallo specchio della porta. Cioè, io credo che di positivo ci sia il fatto che la Roma nelle ultime due o tre partite penso che abbia proposto almeno una sessantina di azioni da, diciamo, pericolose. Il problema è che quando tu crei così tanto e segni poco, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cos'è che non va? Che i giocatori non sono particolarmente cinici e non vedono la porta, che ci mettono poca cattiveria, non lo so. Credo che sia un aspetto su cui Di Francesco deve lavorare, perché è veramente un peccato produrre così tanto e poi alla fine fare zero gol, come è successo oggi contro il Chievo. Vi devo fermare un minuto, meno di un minuto, perché c'è il traffico particolarmente importante, perché sta nevicando su tutto il nord Italia. Vi abbiamo detto della partita tra Genoa e Atalanta, allerta meteo arancione, doveva giocarsi domani alle 19, è stata rinviata a martedì alla stessa ora. Vediamo dalle telecamere di Premium Sport i teloni tirati a San Siro, dove questa sera ore 20:45 c'è Milan-Bologna. A Milano sta nevicando anche in maniera abbastanza copiosa. Ci sono già Andrea da Torino, Lucio da Napoli. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Ventesimo minuto a Manchester, 0-0 tra lo United e il Manchester City, sfida che serve per tenere aperta la Premier League, perché se vince Guardiola va a più 11 ed è virtualmente finita a inizio dicembre. Ci sono Andrea e Lucio che adesso sentiamo. Saluto Massimo Caputi, chiedendogli invece, girandogli questo messaggio che viene da Paola, tifosa della Sampdoria. Allora, qual è il punto d'arrivo per Schick? Lei ricorda, l'anno scorso da noi non giocava mai prima punta. Ma infatti la Roma ha una duplice funzione, quella di essere l'eventuale sostituto di Dzeko, perché può fare tranquillamente il centravanti anche per caratteristiche e come ha fatto oggi, ma può essere anche un giocatore che può giocare con Dzeko e quindi fare un po' quello che faceva anche nella stessa Sampdoria, partendo dall'esterno ma accentrandosi. Io credo che sia un giocatore di grandi qualità e prospettive, che però insomma non può essere neanche quel giocatore che dopo l'infortunio e da pochi mesi a Roma possa risolvere da solo le gare. Potrà farlo perché ne ha le potenzialità, ma insomma bisogna avere un po' di pazienza. Per questo io dico, forse a Verona si poteva andare dritti e magari aspettare una settimana. Ma guarda, però, posso dirti una possiamo, cosa? Possiamo andare avanti fino a domani, non c'è problema. Qualcuno di voi, secondo me c'è un giocatore che in questo momento nella Roma si fa fatica a rinunciare, perché è uno dei pochi che praticamente fa saltare ogni schema, e si chiama Diego Perotti. Però se proprio lo vuoi sapere, io col senno di poi so che non stava bene, io avrei fatto giocare Perotti, perché certo. Si è visto che quando è entrato comunque sul lato destro del Chievo praticamente non riuscivano a fermarlo al posto di Gerson, che si è anche mangiato un gol, non stava bene. Io quello che volevo dire prima, cioè che, perché da ogni ragionamento si può fare, più turnover, meno turnover, eccetera. Però la partita della Roma, chi l'ha vista lo sa, è una partita. La Roma meritava di vincere. Di occasioni, la Roma meritava di vincere. Semmai, ecco, si può anche se, il Chievo non è mai stato passivo, Il Chievo non è mai stato passivo. Cioè, il Chievo ha avuto delle ripartenze interessanti, ma dal punto di vista della fase offensiva della Roma, insomma, o della creatività di costruzione della manovra della Roma, non è una brutta partita questa, perché è una partita dove tu puoi fare 5-6 parate clamorose al portiere avversario, vuol dire che non sei andato male, secondo me. Altre volte ti va meglio. Scusa se mi sono permesso di intervenire. Che, per esempio, c'è una differenza tra lo 0-0 della Roma contro il Chievo e del Napoli, a mio modesto avviso, con la Fiorentina. Cioè, oggi la Roma può, come dire, ha dimostrato comunque di essere una squadra che sta bene. Il Napoli che conosciamo oggi conferma che è una squadra stanca. Sì, che ne dica Sarri, che ha detto che è stata un'ottima partita. Grazie poi, Massimo. Poi la Roma, sì. La Roma tira tira tanto, ma non, secondo me questo elemento sull'esplosività offensiva è un tema, ed è un tema che può essere portato avanti, perché secondo me rispetto alla Roma dell'anno scorso di Spalletti la squadra fa un po' meno nella fase offensiva in generale, in assoluto, fa più fatica a trovare il gol, paradossalmente forse è più sicura dietro, cioè molti degli stereotipi che erano stati affibbiati a Di Francesco sono rivelati assolutamente falsi, e alcuni si aspettavano uno Zemaniano integralista da 4-3-3 iperoffensivo, in realtà la Roma è una squadra molto solida, molto compatta, che l'ha dimostrato anche banalmente l'altro giorno in una partita complicata contro il Karabag, che fatica un po' a trovare il gol, che è un po' bassa in certe situazioni, non li prende sicuramente, quindi, cioè, luce ed è sicuramente un valore. Allora saluto e ringrazio Massimo Caputi, ciao Massimo, grazie. Ciao, un saluto. Lucio da Napoli, Lucio. Buonasera. Senta, io adesso torno dallo stadio, sono un neofita tifoso del Napoli, però io penso che la stanchezza è il fattore principale. Secondo me De Laurentiis, pure che spende tanti soldi, però ha bisogno di far riposare i ragazzi. Secondo me un bel 15 giorni di vacanza a Santo Domingo li riprendiamo tutti. Sì, che quest'anno non ci sono. Perché la stanchezza è tantissima. Quest'anno 15 giorni a Santo Domingo non ci sono, Pier. No, però sono due settimane. Però sono d'accordissimo con Lucio, è chiaramente un problema fisico, un problema di stanchezza. È chiaro anche che i nuovi acquisti servono, ovviamente, poi nuovi acquisti benedetti da Sarri, inseriti in un meccanismo di turnazione, perché allora, manca Insigne, gioca due volte Zielinski. Ma infatti io non ho contro, niente contro Zielinski. Il tema del Napoli è assolutamente questo, è sempre lo stesso, lo facciamo ormai da due anni. Ed è un tema che è lì, che non è risolto. Cioè, Sarri è bravissimo, ha creato un meccanismo che quando funziona, e spessissimo funziona, è meraviglioso e inarrestabile, però fa fatica a trovare alternative e soprattutto spreme i suoi giocatori, i suoi titolarissimi, perché evidentemente non si fida molto degli altri. E oggi abbiamo avuto una conferma, nel senso che appunto lì si fa male Insigne, si ferma Insigne e gioca Zielinski. Cioè, si gioca un giocatore adattato in quel ruolo quando davanti hai delle alternative che evidentemente però per lui non sono all'altezza. E poi però sappiamo pure che ci sono i periodi, perché l'anno scorso a un certo punto c'è stato il periodo di Avarà, che improvvisamente le giocava tutte da titolare, Rog, che sembrava un oggetto misterioso, ha finito per giocare le partite più importanti del campionato del Napoli l'anno scorso a febbraio, quindi è anche un po', diciamo, a periodi. Sì, è il suo modo di gestire la squadra. Stiamo parlando di uno bravo, io credo che lì una... Assolutamente, se discutiamo Sarri è finita. Però possiamo serenamente su questo tema, secondo me è giusto discuterlo invece, perché secondo me quello è il salto di qualità che deve fare lui, è la difficoltà che affronta. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo il GR delle 18, poi torniamo con Pierluigi Pardo, 800 24 00 24, dopo parliamo di Juventus-Inter. E ripeto, ci ha detto Sabatini che è colpa di Pier, che ha detto che è stata una brutta partita, a me è piaciuta tantissimo. Ripartiamo da qui, aspetto anche voi. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20. Manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you... Non siamo riusciti a far gol, abbiamo praticamente concesso solamente un tiro in porta a Brozovic verso la fine. E poi i ragazzi sono stati bravi, perché solo in un momento ci siamo un pochino allungati e abbiamo perso la compattezza. Dispiace non aver fatto gol, non aver vinto, è la quinta partita che non subiamo gol, ma è importante l'atteggiamento che abbiamo avuto. Noi bisogna ambire al massimo, noi ogni tanto bisogna chiedersi, oltre che sì, ricevere complimenti perché non abbiamo mai perso, ma anche bisogna sempre guardarla poi dal punto di vista proprio opposto. Perché non le abbiamo vinte tutte? Secondo me c'è la possibilità di vincere quelle partite che abbiamo lasciato. E questo è queste partite, quando non fai gol nei grandi scontri diretti, alla fine magari un contropiede rischi di perderla, e dopo il risultato di Napoli non potevamo permetterci assolutamente di perdere questa partita. Ce lo siamo portato a casa lo scenario di questa nottata qui, di questa notte, di questa visibilità qui che c'era durante questa partita, per cui non vedo perché poi in alcuni momenti ci si debba andare con il braccino a fare le cose. Eccoci qui, riassunto di Juventus-Inter di ieri sera. Intanto 0-0 il derby di Manchester, 41esimo, meglio il City, partita però non straordinaria fin qui. 0-0 Sassuolo-Crotone, 11esimo minuto del primo tempo. Pierluigi Pardo con noi, 800-24-00-24. C'è anche Matteo Crucco, collega del Corriere della Sera. Ciao Matteo. Ciao a tutti, ciao. Allora, c'è chi scrive, paragonando per carità Juve-Inter di ieri sera al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Un abbraccio Maurizio, ma non bestemmiamo. Abu Dhabi è stata una noia incredibile, priva di spunti tecnici. Ieri è stata una noia, ma è stata una partita bellissima. Io lo rivendico. Quegli 0-0 stupendi, allora, come diceva. Allora, io non so perché tu mi hai detto che io ho detto che era una brutta partita. Ha detto Sandro Sabatini, io ieri non ti ho sentito, ammetto, però Sandro ci ha detto è colpa di Pier. No, anzi, io stavo un periodo quest'anno che facevo partire dai 6 gol in su, altrimenti la gente si giocava l'over, non è stata una partita bellissima, secondo me bisogna essere onesti, no? Non è stata una partita bellissima. È stata una partita noiosa, ma bellissima al tempo stesso. No, vabbè, sì, ma infatti è il sentimento del bello e del sublime, come diceva Kant. è tutto discutibile. Sicuramente non è stata bella, forse è stata sublime. Io ti dico, da telecronista, preferisco le partite equilibrate fino all'ultimo, anche se finiscono 0-0, rispetto alle partite che sono 4-0 alla mezz'ora. Quindi, da questo punto di vista, ecco. Detto questo, insomma, si poteva vedere qualche palla gol in più, si poteva vedere. Dai, intanto abbiamo chiamato il gol del Manchester City, 43esimo minuto, ha segnato Silva, 1-0, United 0, City 1. A te Matteo, ieri, che è piaciuta o no la partita? Adesso fuori dagli scherzi. Sì, perché voglio dire, a un certo punto è stata una sfida a scacchi tra i due allenatori. Allegri ha dimostrato innanzitutto di avere rispetto per quest'Inter, no? Rispetto agli anni passati, con questo 4-5-1 copertissimo. Quindi nel primo tempo, per una buona mezz'ora, sembrava che la Juve stesse giocando in trasferta, no? Con queste ripartenze, l'Inter condannata a un buon possesso palla, però un po' sterile. Quindi insomma sono quelle partite in cui vedi gli allenatori, le scelte, che secondo me valgono appunto di più di partite dove il copione è già scritto, come peraltro succedeva a Torino con Juventus-Inter degli ultimi anni. Insomma, no? Per la prima volta da un bel po' di tempo è una partita che vale tanto, anche perché quando poi l'Inter era molto forte, la Juve era in crisi per il post Calciopoli. Quindi insomma, diciamo che forse da quella volta di stramaccioni non ci si è visto una Juve-Inter così competitiva, così ad alto livello, e ad alto livello possono anche finire. Sì, gli interisti si toccano, considerata come finita la stagione di stramaccioni. Non voglio rovinarvi il quadretto, però mi aiutate a capire, anche alla luce dei due pareggi di oggi, in questa domenica degli 0-0, dopo il sabato dello 0-0, fra Allegri e Spalletti, chi deve avere un po' più di rimpianti, oppure chi esce meglio, Pier? Come risultato esce meglio l'Inter. Io invece non sono d'accordo, Pier. Secondo me deve essere più contento Allegri, perché vede il Napoli che ad esempio è l'interlocutore numero uno, che sta attraversando oggettivamente un momento di crisi. Poi alla Juve può anche capitare vale di non segnare. Tutti. Sì. Questo vale per tu tutti. Tu non credi nell'Inter, vuoi dire, dicendo no, così, no, però. Per lo scudetto no. Io sono convinto che ieri si è reso conto di una cosa, che per arrivare fino alla fine le servono almeno due giocatori. Sicuramente serve un trequartista di ruolo, perché Brozovic è adattato, Borja Valero è adattato. Ci vuole uno che salti l'uomo e che serva l'ultimo passaggio, che in partite bloccate come quella di ieri sono come il pane, insomma, uno che poi allarghi subito sulle fasce. Cioè, quindi l'Inter sa che se a gennaio sul mercato i cinesi fanno questo sforzetto in più, che non hanno fatto quest'estate, ma hanno fatto l'estate scorsa, è una squadra che può partire alla pari con gli altri, però le manca sicuramente, cioè, ha bisogno di strutturarsi meglio a livello di rosa, però se fa quel passetto in più e poi certamente ha bisogno di una punta di scorta che non sia Eder, ha bisogno di un po' tante cose, no Pier? Ma allora, io all'Inter ci credo, ho cominciato a crederci da qualche settimana, perché mi sembra tutto sommato che non ci sia, allora, innanzitutto non c'è una squadra così dominatrice e così superiore in grado di far sfigurare l'Inter. Poi stiamo parlando di una squadra che in 16 giornate non ha mai perso. Poi c'è il discorso delle coppe, ed è una squadra che ha dei punti fermi molto, molto precisi, cioè, ha un grandissimo attaccante, ha un grandissimo portiere che è stato protagonista anche ieri, ha dei giocatori comunque di grande affidamento, per cui insomma può inserirsi. Poi se mi chiedi se l'Inter di Spalletti è una delle squadre più forti della storia del calcio italiano, la risposta è no, e in questo senso l'ha dimostrato credo anche ieri. Però intanto ha preso un punto importante, è prima in classifica anche dopo questa giornata, adesso ha un calendario che è tutt'altro che proibitivo, avrà tutti gli scontri diretti in casa, a parte quello con la Lazio che ha in casa invece il 30 dicembre, e poi avrà fuori casa il ritorno. Quindi voglio dire, di che parliamo? Cioè, secondo me è assolutamente, dopo 16 giornate, se una squadra in testa alla classifica è in corsa per il titolo, per un discorso proprio anche banalmente statistico. Se hai i numeri che l'Inter è in corsa per il titolo, certo, probabilmente per vincerlo deve fare un ulteriore passo in avanti, che poi quello che ha detto Spalletti ieri, bisogna che l'Inter cresca un po'. Sì, però io se penso, non è sembrato contento del tutto, se penso a una settimana fa, Piera, a 9 giorni fa, prima di Napoli-Juventus, dico che chi dopo questi giorni esce davvero con la convinzione di avere forse in mano ancora la squadra più forte è Allegri, che è passato a un potenziale meno 7 sì. con la prospettiva della Juve è la favorita del campionato, una squadra che ha vinto gli ultimi 6 anni. Ma 9 giorni fa non si poteva dire così in assoluto. Beh, freschi di Samp Juve, però certo. Anche per non commettere l'errore fatto 2 anni fa, io credo che convenga a tutti la Juve considerarla sempre e comunque, 2 anni fa ha fatto una rimonta straordinaria. Quest'anno la mia sensazione è quella dell'arrivo in volata, o quantomeno di un campionato che si deciderà da marzo in poi. Questo è quello che mi sembra più probabile. Allora, aspettate perché abbiamo il traffico, siamo anche un po' in ritardo, mi tengo Matteo Crucco. Intanto ha pareggiato il Manchester United, vediamo anche il nome del marcatore subito dopo il traffico, un minuto, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... Tutti convocati. Finito il primo tempo a Manchester, il pareggio è stato di Rashford, dunque tutto negli ultimi 4 minuti, 1-1 tra United e City, prima Silva, poi Rashford, 0-0 invece tra Sassuolo e Crotone, siamo nel 20° minuto del primo tempo, questa è la partita che si sta giocando in questo momento, poi alle 20.45 Milan-Bologna, neve permettendo, domani rinviata Genoa-Atalanta, era prevista alle 19 ed è stata rinviata a martedì alla stessa ora, e poi alle 20.45 si giocherà Lazio-Torino. Ci ha raggiunto Antonio Paolino, voce delle telecronache per la Juventus. Ciao Antonio. Ciao, buonasera. C'è Pierluigi Pardo, saluto. Ciao. Matteo Crucco invece. Ciao. Con l'ultima battuta che è per Spalletti. Quanto ha detto di verità e quanto di bugia ieri quando si è lamentato della prestazione dell'Inter? Perché insomma dimostra che non c'è prostituzione intellettuale, per citare qualcuno precedente, è onesto intellettualmente, ha detto le cose sincere, insomma lui ritiene che l'Inter possa competere ad altissimi livelli, questo secondo tempo in cui la squadra ha dimostrato di avere paura e quindi di avere dei vecchi complessi non gli è piaciuto, e quindi secondo me ha detto la verità. Secondo me sì. A me piace molto. Ha detto anche che i giornalisti sono bravi a fantacalcio perché danno i voti più alti ai giocatori che hanno in squadra. Forse è vero in qualche caso. È il sogno di tutti e possiamo confermare che è così, giusto Piero? È così, è la verità. Io i voti non l'ho mai dati, però insomma. Io neanche, però spio i colleghi e vedo che ogni tanto qualche voto è interessante. Ma qualche mezzo voto in più, ma dai. Qualche mezzo, dai, non di più. Grazie Matteo. Grazie a voi, ciao. Grazie ragazzi. Matteo Crucco. Allora, 800 24 00 24, Antonio Paolino. La Juve ha perso mezza occasione o invece può fregarsi le mani, soprattutto per quello che ha visto anche oggi, quindi con il Napoli che sta attraversando una crisi, la Roma che ha buttato via la seconda trasferta consecutiva? Alla luce di quanto abbiamo visto oggi, certamente c'è da mangiarsi un po' le unghie, diciamo così, Visto quello che abbiamo fatto ieri sera, un gol ci poteva stare, lo dicono poi i numeri di questo campionato, cioè chi ti prova quantomeno a tirare più in porta, e i numeri dicono chiaramente 10 volte la Juventus nello specchio della porta, uno appena l'Inter, probabilmente ci poteva stare la vittoria della Juventus. Però anche se trovo che non sia nulla di sorprendente, cioè, la Juve gioca in casa, ha quel tipo di forza di impatto in casa, mi aspetto che ci sia una partita di questo tipo. Sì, diciamo che non mi aspetto, anche perché spesso e volentieri la Juventus è criticata quando gioca nel modo catenacciaro, viene definito normalmente, come l'Inter, però ci sta, questo è il nostro campionato, questo è il bello e il brutto del nostro campionato, quindi non è una lamentela la mia, dico che la Juventus avesse voluto davvero vincere, avrebbe dovuto fare qualcosa di più, soprattutto, permettetemi, se vuoi vincere, i tuoi giocatori migliori probabilmente dovrebbero stare in campo, oppure i tuoi giocatori migliori, per cambiare qualcosa in corso d'opera devi metterli prima, ma questo tanto per cercare il pelo nell'uovo. Ma sì, poi anche lì andiamo a vedere i numeri di Dybala, certamente che se non sta bene sotto il profilo atletico è giusto che il giocatore, che è Dybalic, lasci spazio anche agli altri. Poi se ascoltiamo i numeri che ci ripetono gli allenatori, che poi bisogna anche sapere un po' leggere, è il secondo giocatore più impiegato della Juventus dopo Higuain, quindi neanche Buffon, neanche Chiellini. C'è un dosaggio delle forze di questa Juventus, ma è quanto ci ha abituato a fare Allegri in questi anni. L'obiettivo è sì, un settimo scudetto, uno scudetto che potrebbe eventualmente arrivare anche nella stagione del VAR, quindi tanto per allontanare e scongiurare fantapensieri, no? Cioè tu dici critici. Varrebbe doppio, perché insomma, varrebbe doppio, sì, diciamocelo di chiaramente. Oh, intanto conterebbe... ieri è andato agli archivi un Juve-Inter senza polemiche, sarà molto una mezza polemica c'è stata, l'han vista, non era rigore, non lo era. Aspetta che saluto anche Roberto Scarpini, ciao Roberto, la voce di Inter TV. Ciao, buonasera a tutti. Non era rigore, no, dai. Quale? Quello di Benatia, quella roba lì, l'unica, non l'hanno dato, quindi non è rigore. Sì, Per fortuna che non si aprono polemiche in questo caso. Cioè, ci sta in campo, la sensazione poteva essere di un certo tipo, poi tranquillizziamoci tutti, perché sennò partecipiamo ad altri campionati. O ad altri programmi, perché ci sono invece altri che si divertono a fare questo. A parlare di cosa? No, volevo invece per i telecronisti partita perfetta. No, volevo chiudere con Antonio Paolino, perché va bene il turnover, va bene le scelte di Allegri, va bene tutto. Ho però l'impressione, giusto per non raccontare il mulino bianco, che Dybala in questo momento sia un mezzo caso. Io non lo considero un mezzo caso, io amo il calcio intero. E dico che deve giocare chi merita di più, anche perché se dovessimo aprire tutti i casi tutte le settimane dovremmo parlare anche di Mertens che non segna da 5 turni, di Cardi che non ha toccato boccia in una partita importante, quindi ha giocato al pari, quindi male come tanti altri, e non sento parlare in questi termini. Ma lo dico per onestà intellettuale, perché quando ci si avvicina alla Juventus sento che la mia squadra è il cuore, ci mancherebbe. Sento parlare di casi molto in fretta. 4 settimane fa, prima del Napoli, c'era un caso Higuain, poi è scomparso. Io penso che gli allenatori dicano molte bugie, però non sono proprio autolesionisti. Quindi quando hanno dei casi, tra virgolette, in casa, nello spogliatoio, Dybala che magari non è nelle migliori condizioni e si possono permettere di tenerlo fuori, tanto di cappello a questi allenatori. Ce ne sono altri che devono fare di necessità virtù e giocano con quello che hanno e non sfruttano al meglio il loro potenziale. Diciamo che per un allenatore compete anche utilizzare la rosa al meglio. Dybala non è Messi, Dybala in questo momento è un giocatore oggettivamente in difficoltà, o almeno anche fisicamente. La scelta di Allegri ci sta, anche perché ha grande abbondanza, quindi, ma anche per quello che abbiamo visto quando è entrato in campo. Io trovo per esempio che anche il Douglas Costa, che ho visto a Napoli, è un giocatore fantastico, non averlo visto in campo ieri per nemmeno un minuto è un altro tema, ma ovviamente non è un caso. Volevo rassicurare questo, è un problema, esatto. I casi ci sono ovunque, eh. A Roma no, se la prendono magari con Bruno Perez o con De Rossi quando dà la gomitata, a Napoli se la prendono con Hamsik o comunque discutono Hamsik che non è in una fase particolarmente positiva, al Milan con Bonucci manco a parlarne, cioè secondo me questo qui non è un tema di malafede. Poi è chiaro che la Juve ha una tradizione in questi anni di una squadra che ha dominato e quindi avendo dominato appena qualcuno delude Dybala, non dimentichiamoci, ha fatto 14 gol in stagione, in 22 partite credo, e quindi il suo rendimento rimane molto positivo, però ne ha fatti 12 nelle prime 8 e poi ne ha fatti 2 nelle ultime 15, e sarebbe statisticamente assurdo non far notare non questa cosa qui, no? Allora fammi salutare intanto Antonio Paolino. Ciao Antonio, grazie. Ciao, grazie a voi della chiacchierata. Ciao, ciao. Buona continuazione. Grazie Antonio Paolino. Roberto Scarpini, che invece credo a sorpresa questo pomeriggio ore 18:28 si ritrova ancora primo in classifica. Non so se tu te lo immaginavi, visto che al Napoli sarebbe bastato vincere per scavalcarti, visto che andavi a Torino. Poteva auspicarlo, calcolando che è stata una settimana difficile per loro, perché perdere, avere il jolly di mettere KO la Juventus mandando la meno 7 e poi vagliele a prendere al Napoli 7 punti e non averla sfruttata, addirittura perdendo e quindi vedendo i bianconeri accorciare con il gol di Higuain, con una prestazione opaca, la delusione dell'eliminazione comunque, poi tutti adesso dicono ha fatto apposta, niente, se il City andava a vincere anche perché non è una passeggiata, l'Europa League a febbraio mangiavano le mani, i gomiti e tutt'altro 20 volte per non aver vinto, magari avrebbero poi giocato con un piglio differente se avessero avuto notizie, soprattutto secondo te, diverse. Però comunque sei fuori dalla Champions League, ma tanto per arrivarci, poi quando ci sei, quando ne esci, non puoi dire no, siamo contenti che ci concentriamo sul campionato. Proprio no, non penso che sia così. E quindi era una settimana difficile, però che il mio amico Pioli riuscisse a bloccarli in questa maniera senza particolari difficoltà non me l'aspettavo. Vi giro questo messaggio di un amico anonimo juventino moderato: Icardi non ha giocato male, è che non gli è arrivata mezza palla. Però io contrasto da quando abbiamo iniziato questa trasmissione il concetto che ieri l'Inter abbia fatto catenaccio. Io non so, Roberto, se a te dia fastidio questa cosa, cioè che si dica che ieri l'Inter ha fatto catenaccio, perché non è vero, perché così come si diceva una settimana fa della Juve a Napoli, ma non era catenaccio, era organizzazione difensiva, ha avuto un possesso palla superiore a quello della Juventus, si è cercato di giocare. Nel secondo tempo invece è stata brava la Juventus a non farci più uscire, però la linea difensiva era abbastanza alta, quindi il catenaccio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo portato a casa un punto, non abbiamo subito gol, abbiamo avuto solo due episodi favorevoli per i bianconeri, dove è stato fortunato e bravo Handanovic, un po' come a Napoli, su un rimpallo hanno avuto una doppia occasione ed era stato bravo anche in quella circostanza Handanovic, ma io penso che comunque se vogliono vedere Icardi in crisi, come diceva il collega Paolino, ma me lo tengo tutta la vita in crisi. Icardi ieri ha fatto una partita generosa e dispendiosa al pari di Brozovic, andando a correre, a prestare, a chiudere le linee di passaggio ai difensori bianconeri per cercare di non far impostare dal basso con facilità l'azione. La prima non è la serata ideale per i numeri 9, è stata di Brozovic e di Icardi. Poi, poiché non siamo mai arrivati se non in tre occasioni dalle parti di Szczęsny, allora diciamo che è in crisi, va bene. Va benissimo. Pier. Evviva queste crisi. No, mentre stavo leggendo, come semplicisti con raccontare il calcio, non leggerlo, che sappiamo. Ci dice che confermiamo Fantacalciopoli con i giornalisti che danno qualche mezzo punto in più ai propri giocatori. Io da quello che tra l'altro, perdonami, lo cito perché invece in privato mi sta sgridando perché dice che con un ghigno dico che l'Inter non è da scudetto, ma io ne sono convinto, ma ciò non toglie che l'Inter stia facendo qualcosa di meraviglioso quest'anno, ma secondo me alla lunga non è da scudetto, lo è più potenzialmente il Napoli. Poi stiamo qui fino a maggio e la raccontiamo. In questo momento ci sono 5 squadre che possono vincerlo, mai come quest'anno. Non è fare 0-0, mai come quest'anno, perché c'è comunque grande differenza tra le grandi e le piccole, sono tutte là, nessuna dà la sensazione di essere capace dello strappo decisivo. L'Inter secondo me ieri ha fatto un grande risultato, lo ribadisco, ha fatto un grande risultato, diciamo che per chi vuole essere pessimista a tutti i costi non è venuta al campo della Juve a dimostrare che è più forte lei, ma probabilmente non è più forte lei. probabilmente più forte la Juve come valore assoluto, no? Certo. No, ma secondo me come valore assoluto la Juve è qualcosa in più e credo sia abbastanza normale. L'Inter però ha delle certezze, ha una classifica molto positiva, non ha le coppe, gli scontri diretti in casa, una serie di cose che potrebbero, cioè se l'Inter arriva lì a marzo, tenerla aperta fino ad aprile. Il Napoli indubbiamente in questo momento sembra una squadra un po' in difficoltà, un po' svuotata. La Roma sembra sempre che poi gli manchi, no, una lira per farne 100, soldo per far la lira. E attenzione anche alla Lazio, perché la Lazio potenzialmente è a 38 se vince le due partite che mancano, quindi sono in casa con Torino Udinese. Allora, quindi sono tutti lì. Sì, tutti ma tanto non scappiamo. Allora, stiamo andando lunghi. Io intanto saluto Pier, che domani ritroviamo alle 14. Dopo il diario alle 14, voglio sapere da Roberto Scarpini, poi lo saluto. Siccome fra due settimane c'è Juve Roma, qual è il tuo risultato ideale? Pareggiotti, sempre in pareggiotti. Sempre in pareggiotti. Perché se tu vinci puoi guadagnare su sempre. Quindi, su tutto. Quindi, oggi, quindi Roma, tu ci credi allo scudetto. Tu credi allo scudetto. Pareggiotto. Se fa un pareggiotto anche la Lazio, noi abbiamo passato indenni il turno difficile, cioè senza vedere altri che ti saltano, che ti si avvicinano. Perché questo campionato a 5 è quello su cui bisogna fare i conti. Poi ti può capitare che Napoli e Roma perdono punti, per me è perdere punti quando non vinci con le altre, visti i valori quest'anno, ma ci sta, devi sempre essere al di sopra o al massimo del tuo livello per poterle vincere, ma siccome finora hanno dimostrato che le hanno vinte sempre tutte, tranne qualche raro caso, sono tutte a 4 punti persi, guarda, te lo dico io guardo sono molto tutte alla classifica a 5 avulsa di queste 5 e l'Inter è seconda. Abbiamo pubblicato ieri la classifica di questo mini torneo a 5. Sì, certo, per media punti. No, seconda per media punti rispetto alle partite giocate e con l'aggravante in più, in positivo, di averle giocate in trasferta. E questo pesa, ovviamente. Grazie, Roberto. Ciao, buona continuazione, buona serata. Ciao, Bobo. Buona. Grazie, Roberto Scarpini. Inter TV 800 24 00 24 00. Sassuolo Crotone, 33° minuto. Torniamo subito. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. È una squadra che è difficile da affrontare, non è un caso, 21 punti, 12 vittorie in trasferte. Dobbiamo stare molto attenti sulle preventive domani. Campo aperto, portano sempre 4-5 uomini in transizione e noi sicuramente dobbiamo fare la partita, ma non è un caso che 21 punti, 12 punti secondi in trasferte, perché è una squadra che in transizione può far male. Palacio sta, dopo tantissimo tempo, sta molto bene, Verdi stava con me, era giovane, si vedeva che aveva talento, si capisce se è destro o sinistro per la qualità che gioca con tutti i due piedi. Sarà una partita molto molto difficile, dei miei mi aspetto rabbia, voglia, sappiamo l'importanza della partita, sappiamo che in questo momento voglio vedere quello che ho detto giovedì, nel calcio ci sta che ci sono momenti di difficoltà, ci sta che può succedere un episodio che in quel momento può essere sfavorevole, ma voglio vedere che al primo schiaffo non ci abbattiamo, anzi voglio vedere che riusciamo a reagire con veemenza, con forza, e voglio vedere questo. Allora, ore 20:45, neve permettendo Milan-Bologna, ci sono i teloni sul prato di San Siro e si cerca di evitare che la nevicata che da un paio di ore sta cadendo su Milano renda difficile o impossibile questo Milan-Bologna. Domani, ve lo ricordiamo per l'ultima volta, Genoa-Atalanta è stata rinviata, era prevista alle ore 19 ma c'era allerta meteo arancione su Genova e quindi è stata rinviata al giorno dopo, sempre alle ore 19. Saluto Mario Ielpo, ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. Intanto questa sera Gattuso fa la rivoluzione, si torna alla difesa a 4, si torna al 4-3-3 di Montella e si abbandona la difesa a 3 nata sull'onda della spinta popolare e della volontà della società dopo il KO di Marassi. Io non so che riflessione ti viene da fare. Ma che insomma non abbiamo una linea maestra da seguire, quindi gira un po' di qua, un po' di là, in maniera ondivaga, senza avere un'idea così principale. Io non ritengo che ci sia uno schema migliore degli altri. Quello che mi ha insegnato Ranieri, che è stato il mio primo vero maestro di calcio, è che quello che conta è che i giocatori che vanno in campo siano convinti di fare lo schema migliore per loro. Se però si cambia ogni volta, questa convinzione mi sembra difficile da instillare nei giocatori. Sì, però mi viene in mente Ancelotti che domenica scorsa ha detto: se devo dare un consiglio a Gattuso è quello di sbagliare con le proprie idee. Sbagliare? Con le proprie idee. Ah, quello sicuramente, quello sicuramente. Io sinceramente già a Benevento loro giocavano con due ali molto larghe, bisognava avere due larghi, quindi era meglio giocare a 4 che a 3, se no c'era sempre questo dubbio se queste ali fossero di competenza dell'esterno dei tre o del quinto o dei due laterali, quindi sono sempre andati un po' in confusione. Borini ha sofferto, io l'avrei fatto già subito lì sinceramente. Ti è piaciuto l'approccio di Gattuso come allenatore? Io ti dico la mia, secondo me pesa anche sulla sua coscienza il pareggio di Benevento e pesa anche la serata di Europa League, che è irrilevante dal punto di vista della qualificazione perché era già tutto deciso. Però quando sei in un momento difficile, aggiungere una serata come quella a un momento difficile poi rende tutto più complicato, e un allenatore questo dovrebbe saperlo. Sì, beh, insomma, questa era una partita strana, perché era veramente inutile, anzi era un ostacolo per la preparazione delle altre. Se il Milan ha un gap di preparazione fisica, come si dice in giro, era anche normale che i giocatori migliori rimanessero a Milanello a prepararsi, quindi poi diventava difficile preparare la partita. Però evidentemente nei momenti difficili anche le partite senza importanza dal punto di vista della classifica servono per migliorare, per dare fiducia, no? L'espressione di Kalinic a Benevento dopo il gol che ha sbagliato dopo un minuto, non so se ci avete fatto caso, di sconforto per essere così in un momento di iella, no? Quella è stata l'espressione, è quella che deve togliere Gattuso, perché deve liberare il cervello dei giocatori e portarli verso il positivo e non verso questa oppressione che c'è, insomma, di negativo sulla sì, squadra. Anche se non credo sia soltanto una questione di testa. Cioè, io ho l'impressione che il Milan di Montella giocasse un brutto calcio. Nelle prime due partite non ho visto nel Milan di Gattuso un calcio diverso, comunque riconoscibile. Non sappiamo ancora qual è, no? Se il calcio di Gattuso deve essere un calcio di corsa e aggressività, ci vogliono anche le caratteristiche, un po' quello che dicevamo l'altra volta, se Conte poteva venire al Milan, no? Deve cambiare forse anche i giocatori, perché per fare un calcio di aggressività non basta dirlo, ci vogliono anche giocatori con le caratteristiche per farlo, e se non ci sono si fa fatica, quindi bisognerà vedere qual è questo calcio, qual è l'idea di calcio di Gattuso, che credo sia quella appunto di aggressività che non abbiamo visto in queste due partite, magari anche per motivi un po' contingenti, insomma, bisogna dargli da questo punto di vista un po' di tempo. Cioè la famosa condizione atletica, ecco, cui è stata lasciata la squadra, che però spesso, ma io lo dico ricordando anche la parabola dell'Inter l'anno scorso, viene agitata quasi come alibi quando le stagioni partono così. Però qui si diceva anche prima delle sonore, bisogna dire. Sì, però io ad esempio che il Milan di Montella corra meno di altre squadre, io lo trovavo anche abbastanza logico, visto che solitamente le squadre di Montella sono abituate a far correre la palla con un gioco magari orizzontale, non bellissimo, nel senso che non pieno di verticalizzazioni, però raramente fisico. E quindi mi pareva anche un po' una scoperta dell'acqua calda. Sì, ma la statistica della corsa non conta niente. Conta poco. Perché se si vede, le prime squadre del campionato sono sempre ultime nella corsa. Cioè se uno vede Real Madrid, Barcellona, eccetera, sono sempre ultime nei chilometri percorsi. In questo caso sono Milan e Toro in Serie A. Milan e Toro in Serie A sono le ultime. Lo so, però di solito se tu vedi, di solito c'è qualche squadra in difficoltà, ma ci sono anche sempre le prime. Adesso io il campionato italiano non l'ho mai guardato, però se lo guardo, le più grandi squadre del mondo sono sempre ultime come chilometri percorsi di solito, perché danno la bambola agli altri e sono gli altri che corrono appresso a loro. Quindi è un po'... una cartina, insomma, cioè un po' una medaglia da due facce, dire questo della corsa. Non come, è come va a finire come stasera? Si corre e la forza fisica che ci si mette, quello sì, corre. È l'intensità. Mi dai il pronostico? Intanto il Manchester City è in vantaggio 2-1, nono minuto del secondo tempo, ha segnato Otamendi, mezza rovesciata sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla che è rimasta lì al limite dell'area piccola davanti alla porta del Manchester United. Otamendi da solo ha fulminato De Gea per il gol del 2-1. Come va a finire stasera? Io vedo insomma, una partita molto difficile per il Milan, potrebbe anche rischiare di perdere, spero che vinca, è difficile fare un pronostico, però il Bologna davanti ha una qualità, gente che fa gol, quindi non credo che finirà a pari, o il Milan azzecca la partita e vince oppure perde. Sì, il che aprirebbe ovviamente scenari... Esatto. Scenari, insomma, tutti da discutere da domani. Grazie Mario. Apocalittici, ciao, sì. Ma del resto Fassone ha già detto che è una stagione di transizione. Grazie Mario Ielpo. 2-1 per il City. Siamo al decimo minuto del secondo tempo. 0-0 Sassuolo Crotone. Ci sono Nicola e Matteo. Allora, traffico, ripartiamo da loro. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena. E non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. Finito il primo tempo di Sassuolo Crotone 0-0, c'è chi chiede se Zenga è l'uomo giusto per il Crotone, non lo so, credo fosse Nicola, ma poi abbiamo sentito le vicende che hanno portato alle sue dimissioni. Saluto Tancredi Palmeri, ciao Tancredi. Ciao ragazzi, buona domenica nevosa. Stiamo seguendo il derby di Manchester, 2-1 per il City sullo United. Se va così e manca poco più di mezz'ora, addio Premier League. Possibile fine della Premier League, perché a più 11 Guardiola non lo recuperi nemmeno con rompendolo. Sì, e tra l'altro mi sembra City che sta vincendo anche meritatamente. Sì, discretamente, poi bisogna ricordare una cosa, manca Pogba a Mourinho e Pogba è sicuramente uno dei migliori tre giocatori di questa Premier, non è una assenza qualsiasi, anche perché il centrocampo del City è diventato una cosa intrattabile. Ricordare che Guardiola è riuscito ad adattare nella linea centrale, dove insomma aveva Iniesta e Xavi al Barcellona, David Silva e De Bruyne, che tendenzialmente nascerebbero come due numeri 10. Quindi riuscire a giocare con un centrocampo simile è pazzesco. Quindi devo essere sincero, sento molte critiche sul Manchester United, però questo 11 non è a livello di quello del City, per cui francamente riuscire a tenere botta non è nemmeno male, però tre gol tutti e tre venuti per tre disastri difensivi. Sì, beh, ma questa è un imprinting, sì, credo, sì. Per questo City, che anche per questo United. Io credo che se domani Allegri ha la possibilità di mettere lì un cent per evitare una squadra, deve tassativamente evitare il Manchester City di Guardiola. Domani ore 12 c'è il sorteggio. Allora, carissimo Tancredi, c'è una cosa però, che quando lui aveva il Milan, Allegri, e si scontrava col Barcellona, gli era sempre incartato. Al Barcellona di Guardiola gli era sempre, stante ovviamente il gap tecnico assurdo che c'era, però gli era sempre incartato. Sì, però secondo me se va a pescarsi in un'altra, per carità, c'è anche il Paris Saint-Germain, che non è proprio una squadra scarsa. O United States. Però se può evitarne una, io consiglio evitare il City. Nicola dalla provincia di Pesaro, Urbino. Vai Nicola. Grazie, buonasera, grazie per la convocazione, complimenti. Volevo fare due parole sul campionato. A inizio stagione la mia griglia di partenza, io sono un tifoso juventino, la mia griglia di partenza era Napoli, Juve e poi a terzo livello Milan e Inter. Ieri ero a Torino allo Stadium a vedermi la partita. Adesso posso affermare, anche sentendo il dibattito che c'è stato in studio, che la favorita numero uno è l'Inter. Che ieri si è fatto una partita sulla difensiva, però è giusto per darmi contro, Nicola. Ho sentito tutti i dibattiti, però sinceramente ho visto quest'Inter che noi tifosi juventini avevamo delle sensazioni diverse. Io sinceramente di questo pareggio sono deluso, ma non troppo, perché comunque avevo paura, ecco, di queste ripartenze di Icardi e del tridente offensivo, quindi un pareggio che sbaglio, ma forse mi soddisfa anche un po'. Però quest'Inter la vedo ti fa paura. Chiaramente, devono succedere una serie di situazioni, cioè non avere infortuni, però il fatto che ha una stagione sui generis, quindi senza queste coppe, quindi potendo secondo te esce da questa, da questo sabato e domenica come favorita numero uno dello scudetto, Tancredi? Non so se sei d'accordo. Io no, ma, l'ho detto prima e l'ho argomentato, però sì, devo essere sincero, è ovvio che la solidità mentale ancora più che fisica dell'Inter è impressionante, perché come avete detto voi, 0 gol concessi al Napoli, alla Juve in casa, ha già vinto a Roma, tutte queste partite ce l'avrà al ritorno in casa, per cui non è mica poco, e questo deve contare qualcosa. Abbiamo visto tante volte in passato delle Inter di Pioli, Mancini, ma ricordo anche Zaccheroni nel 2004, che magari facevano 2-3 mesi al top e poi si sfaldavano. Ecco, questa volta secondo me non si sfalderà, non fosse altro per la voglia di vincere gli Spalletti, che dobbiamo ricordare non ha mai vinto uno scudetto in Italia. E ti snocciolo una statistica, Giovanni, personale, fatta poi sono andato a cercare personalmente: Spalletti è l'allenatore nella storia del calcio italiano che più volte è arrivato al secondo posto senza vincere lo scudetto, quindi immaginati che voglia può avere. Sai chi ha detto una cosa simile? Massimo Moratti ha detto: meglio Spalletti di Conte. Vero. Perché Spalletti ha portato a Milano la sua voglia di vincere. Conte, vero, che è un grandissimo tecnico, ci sarebbe arrivato da tecnico già vincente. Matteo da Lodi. Sì, ciao, buonasera, ciao. Grazie per la convocazione. Vai. Io ho sentito prima il discorso sulla fase difensiva dell'Inter e non mi trovo molto d'accordo sul catenaccio, nel senso che i primi 20 minuti non abbiamo fatto giocare, io sono interista, non abbiamo fatto giocare la Juve perché li attaccavamo alti. È normale che quando inizia a prendere il giallo, però giallo Perisic, non riusciamo ad andare a prendere più Pjanic nella loro prima fase di costruzione, abbiamo avuto difficoltà poi a tenere il pressing alto tutta la partita. Però la fase difensiva dell'Inter, a me, anche no, Inter-Atalanta allo stadio, secondo me non è catenaccio, è una buona fase difensiva, sì, finalmente. Sì, direi, sì. Anch'io Tancredi, e poi ti saluto, ho trovato ingeneroso chi ha parlato di catenaccio, ma valeva anche una settimana fa per la Juve a Napoli. No, verissimo, anche perché poi in verità l'Inter si è difesa, cioè quattro uomini rimanevano fuori dalla fase difensiva, perché gli esterni, Icardi e Brozovic, che difendeva male, secondo me girava in tondo, non facevano parte di quella fase difensiva. Ti chiudo solo una cosa, poi ti saluto. Devo dire però, la Juventus, con tutti i problemi che le possiamo riconoscere, si può permettere di tenere in panchina un po' di giocatori, non ha fatto entrare anche Douglas Costa, e non condivido come te, come hai detto tu, non condividevo le critiche ad Allegri contro il Napoli, mentre invece secondo me ieri Allegri ha fatto un favore all'Inter, perché aver regalato quasi un tempo di timidezza con un 4-3-3 che forse poteva essere ben più spavaldo, alla fine la Juventus comunque nel secondo tempo ha attaccato quasi perché non poteva fare altrimenti. Sì, ma ci sono tanti tifosi della Juve, Tancredi, e credo che ci possiamo aggiornare domani, il tema lo riproponiamo, che se la sono un po' presa con Allegri per come ha gestito la partita di ieri sera. Tema di cui parlare. Grazie Tancredi. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a Tancredi. Palmeri 1-2, Manchester United, Manchester City. Noi ci fermiamo qui. Tutti convocati weekend torna domenica alle 17. Ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Carmelo Lauricella, Paolo Corleone in regia. Domani dopo le 14 c'è Carlo Getta. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.